Ho capito un tubo di quello che hai detto, che è l'eco dopo il bombardo. Prova a attaccarlo un po'. No, è l'eco del garage. Non mi ero accorto, invece ho toccato per sbaglio. Infatti, non riuscivo a capire quasi nulla perché parlavi veloce. Anzi, l'hai sentito bene. A volte al buio vado a spegnere, l'ho detto con l'altro tasto, capito? Perché è vicino. Eia, ti ho capito, ti ho capito. Ah, sì, sì, c'è stato un eco. Io ho visto uno 180, e lì c'è stato un eco. E abbassa quelli che... anzi, abbassa quelli che sono. Gli apparecchi. Perché sto scendendo così basso di radio? Perché sto usando la magnetica, insomma, è crepata, capito? Non si può mettere a posto per niente. Ho già controllato ieri, c'è il VPN, cazzo, si è sempre saldato con la stata altri. E no, si è sentito bene, alzati il volume, ce l'avevo basso io. Ehi, capo, già va bene. Sono già di meglio, no? L'antenna così lunga non le metto più. Cazzo, lo sono spaventato quando fanno quando ci sono i fulmini adesso. Io. Mi sono pigliato questo fulmine, la brucia due televisori, non ce la faccio, cazzo. Ogni volta che fa un ciclone, cazzo, con la passata di fulmine che ci sono, e mi piglia il nuovo più pieno, no? La magnetica ci metto lì, come l'ho messa adesso, fuori dalla finestra e parlo con quella, tanto per modulare così. Tanto gente di fuori, non rimetto qui, no, si abbassa a questa, abbassa a avanti. Sentiamo nuovi sì qua, sta arrivando, sentiamo nuovi qua. Già lo so, già va bene. Così almeno sono più tranquillo, quando ci sono fuori, prendo l'antenna da fuori, me la metto dentro casa. Capito? Almeno sono più certo. Quando me ne vado a letto sono tranquillo, non devo stare spaventato. Adesso domani, dopo domani, gliela distacco e così gliela do a quell'ora. La porta via e c'è il sistema lui. A chi la va? Adesso non mi ricordo il nome dell'attivo, abita invece alla Teloccia. Non mi viene in mente il nome adesso. Bombo? No, non è Bombo, no, è un PCB. Che è entrato, capito? Anzi, ho pigliato dalla chilometra stamattina, me l'ha dato già la metà, mi ha versato lì su, mi sto dando il conto 4120 euro, quindi già va bene come aspetto. Va bene, sì. Ma ti sta vendendo tutto? No, il keyboard me lo tengo e anche il costo, il 2009, quei due me li tengo, se non ne faccio di te. Sono al 27 invece, non devo stare a chiedere soldi a nessuno, ne sono rotto, capito, di questa cosa. La colpa mica la mia, grazie. Hanno bloccato tutto e poi tutto l'hanno sbloccato, posso dire adesso di pagare, tanto per dire, potevano pagare ieri, avanti ieri, oppure il 29, niente. Devo aspettare il 27 e me l'hanno due mesi assieme con il e chi c'è roba da parte il primo lì, però va tutto bene, chi non c'ha nulla deve andare a chiedere, capito? E non va a giocare anche qualcosa la prossima volta in agosto non mi frega più di più. E com'è che hanno bloccato la pensione? Ah, non è la pensione, il reddito di inclusione hanno bloccato, un sacco di gente a Sassari, capito? Cazzo, allora, casino. Il telefono si è perduto. Tu vai a telefonare, l'hanno messo occupato dal giorno 26. L'ho fatto stasera, l'ha provato. Per vedere, nulla, è occupato. Quindi se ne parlerà o il 15 o il 27, adesso vediamo un po' quando si vogliono ricevere i rami due mesi. Come fai? Sì. Già mi bastano 120 euro, a me ne abbiamo 27. Picchette, e come fai? Che la spesa, ogni volta che vado a fare la spesa le spendo 80, 90, ogni volta. Ah, io ho speso 50 ieri, due buste da MD, l'ho risparmiato. Che io vado al discorso vicino a casa, non ti credi che hanno la cola da pagare di più. Però con tanto lì lo spendi sempre tra frutta, verdura, compri la mozzarella, compri quello, compri l'altro. Cazzo, arrivo a casa sono sempre 90, 80 euro. E se ti passano pure? La mozzarella sono le stesse, tanto come mangia si muova qui. Compro budini, yogurt, quella roba lì, la frutta, verdura non le mangio. No, io le prendo le mozzarella perché mi faccio la caprese, la sera che è più leggera. Faccio una caprese, non sempre, però ogni tanto me la faccio, quindi le prendo per quello. A me piacciono le mozzarella fatte così con pomodoro, un po' di origano, l'olio e il sale. Ecco la caprese fatta. Ah beh, no, io mi... Questa le faccio il condobile, mi faccio il pacco di condobile, l'ho pagato 3 euro. E ce ne sono 6 dentro. MD. E poi ieri ho mangiato due hamburger di cavallo e dentro il pacco ce ne sono 4, quindi ho fatto ieri, a cena ieri e a pranzo stamattina. No, io come si dice, non ne prendo più con l'ombre, perché ho visto come li fanno, non ne prendo più. Ci buttano tutta la carne, ossa, tutto calcio, tutto in mezzo, mamma mia che schifo. No, io adesso, quindi oggi ho mangiato insalata, insalata e una bella insalatona fatta con mischiata, con rucola, insalate miste, pomodori, mi ha fatto una bella insalatona e mi ha riempito, non ho mangiato altro, un pezzo di formaggio e buh, basta, non ho mangiato altro perché ero già pieno dall'insalata. Ah beh no, l'insalata a volte te la mangio io, col tonno, poi a te mi piace parecchio l'iceberg e me. Con me anche io mi sono fatto l'insalata, pomodoro, tonno, cipolle e maionese, non hai idea, ah è l'uva sole, e io ho fatto il cioccolato il giorno, due gliel'ho fatto, ne ho fatto due a cena e gliel'ho fatto. Io sto cercando di evitare la carne, qualche volta la mangio qualche fettina così, però sto cercando di evitarla il più possibile. Lo sai che mi stanno guardando queste brugoline e cazzo mi fanno un prurito. Sono andato al dottore e bisogna vedere cosa le fa male, devo cercare di... Ma mi faccio fare una visita. C'è la prova allergica, no, prima faccia quello che dico io, guarda che cosa li può far male, a me io non mangio nulla, la sera mi viene questo prurito, sempre, sempre, tutte le sere. Ah, potrebbe essere anche, come si chiama me? Ragazzi, roba salata, roba dolce, non lo so, magari d'aglio, fa male, non lo so, qualcosa del genere. Ho pensato anche agli acari della pelle, ho messo il lapis da tutte le parti, manco ghisue, perché non è roba da mangiare, io sono le pastiglie che mi fanno questo effetto. Ah, se tu pigli le pastiglie la mattina senza mangiare, è bruttissimo. Anche a Simona che qualche volta glielo fa. Le pastiglie sono... Ma lo metazolo non lo prendi quello per... serve per quando prendi il sacco di pastiglie, capito? Il gastroprotettore? Eia. No, per le pastiglie che prendo io non ci vuole, ci vuole per gli antidolorifici, quello lì. Il gastroprotettore si prende quando prendi l'antidolorifico, prendi occhi, roba così, devi prendere prima il gastroprotettore, perché se no ti rovina lo stomaco. Sì, non solo insomma qualche fegato si crema, specialmente le pastiglie. La seconda della pastiglia che prendi, me lo fa anche a me mi fa venire le due più grandi della pizzeria, figurati. Anche se per caso Cavillona. Mi bevo una birra in Finusa e poi la sera me bevo un Heineck. Immediatamente mi ritornano le macchie, capito? E poi mi passano, oppure allungamento dei G delle gambe, sto parlando, del resto del corpo, qualcosa, cioè, ho sempre avuto da 30 anni. A parte che vuole entrare, c'è qualcuno che è entrato, però non si fa avanti adesso. Sì, così ti ha messo la modula, sto con la magnetica. Ma arriva bene, con la Turbo 2001, sì. Sì, a quella corta, quella corta. Ah, c'è la Mini Turbo. Sì, a aspettare va bene. Ma dove l'hai messa? Fuori dalla finestra, agganciata con una piastra di baracchino, di quelle, dello chassis, la parte di dietro del baracchino. Se tu rifai una piastra e la metti su una piastra in acciaio, quella lì, spara come, vabbè, la Turbo 2001 è come la Mantova, perché io da sotto casa arrivavo lo stesso segnale, mi hanno dato lo stesso segnale che arrivavo da casa, immagino. Ho capito, aspettava che mi è arrivato un messaggio nel tuo telefono, voglio vedere cosa cavolo è. Sì, avanti che vuoi entrare. Favillona, là. Sì, avanti. Uè, Lillo. Favillona. Uè, tu sì. Uè. Uè, Biondo, e beh già. Su bastone. Su bastone, vai. Sì? Su bastone, quello che entrava prima, ma... Cazzo di bastone. Che faceva così che gridava? Cazzo di... Uia, per carità, mi sono appena alzato, adesso mangio. Adesso è 10 minuti e quattro, me ne va a lavorare. Via da te. E beh, subisce che bene anda, sa. Ehi, ehi, oh già. Ascolta, ti volevo chiedere, però... per bellezza, e ha aggiunto altre pietre, ho aggiunto, poi le devo mettere qualche piantina. Ehi, te l'ho detto, comprali quelle finte, però non di plastica, quelle che sono in seta sono belle perché si muovono, sembrano invece quelle plastiche rimane in dettari. Quelle in seta che si muovono e tutto, come c'è la corrente, si muovono, sembrano piante vere. Sì, già lo so, quella è seta, già lo so, già lo so. Ce l'avevo quella in plastica, non si viene a nulla. Ah, la plastica fa lo schifo. Io quelle seta ce l'ho un bel di anni. Vabbè, si attacca proprio di meno, ogni tanto le lavo, le pulisco, capito? Quando pulisco l'acqua, le pulisco anche le piante, le spazzo con lo spazzolino e poi le rimetto. Ma sono miliardi, certi pesci tentano di mangiarsene, lo sai, pensano che siano bene e tentano di mangiarsene e staccano le funghi. Cazzo di Ehi, sì sì, le trovi galleggiando le funghi, perché cercano di musicarle e poi vedono che non ce la fanno e mollano tutto, capito? E io ho anche le lumache tropicali che sono latte, cazzo, e così, e... come si chiamano, i guppi sono nati, ce li ho piccolini, ne ho grandi, ne ho piccoli, lo sto facendo quasi tutto a guppi, di modo sono i pesci che durano di più, quelli lì che sono quelli più facili da tenere, che resistono più resistenti, tanto io ho avuto anche i discus, non so se riconosci i discus, vai a guardare, li ho pagati 85 euro l'uno da piccolini, ma piccoli però mi sono diventati enormi a casa. Poi è venuto quello di Portobello a casa che poi ci ha messo il negozio, è venuto e me li voleva comprare, non li ho latti. Ma tu adesso li hai i suoi tropicali, tu ce li hai tropicali? Sì, io ce li ho tutti tropicali. Ma però, per mettere, per dire adesso voglio cambiarlo, no? Voglio fare, mettere un pesce grande e tropicale, solo uno, ne ho visto uno bello, cazzo 140 euro via. Cosa devo fare io? Com'era questo pesce rotondo? Grosso, bello, cazzo, se lo vedi sembrava che ti stava parlando, oh, già. Pesce rosso normale? No, è tropicale questo qua. rosa, però era tutto rosso, cazzo mi ha messo? E i discus sono il re dell'acquario, quindi, però sono ben difficili da tenere, devi misurare sempre il pH dell'acqua, devi correggerlo quando, non è così, no, bisogna fare le analisi dell'acqua sempre, perché io li ho avuti, mi sono cresciuti, sono diventati grandi, poi sono invecchiati, sono morti, però gli ho pagato 85 euro l'uno e uno portandolo a casa mi è morto in cammino, gliel'ho riportato indietro e mi ha detto che secondo lui lo stress trasportandolo, che non era malato, di questo e quell'altro, ma l'ha voluto cambiare. Cazzo, no, rimane. Guarda, lì c'è scritto discus. Guarda, discus, devono vivere all'ombra, devi prendere delle piante che galleggiano nell'acqua, perché loro devono stare all'ombra, e ci devi mettere il legno di Tormela, quel legno che si mette, non solitamente nelle acquari. Ma poi tu che luce c'hai? Quella è cambiata la luce tu? Perché sembra quella che mi ha mandato tu il viso, rimaneva bella, un po' azzurrina rimaneva. Sì, l'ho cambiata, l'ho messo, ce l'ho anche che va sul viola, sul rosastro, là, così. Ehi, vabbè, ma diciamo che è questa che ho messo io, è più per acquario marino che per acquario di acqua dolce. L'ho messa perché mi piaceva il colore, se no non l'avrei mai messa. Mi piaceva il colore, l'ho commissato e l'ho comprata. E questa era un meme, quei neon, per carità, non fa comprare. Cazzo, vabbè. La verità, se così. No, quella che c'ho io è normale. Luce bianca, già l'hai visto. Io ce l'ho una, se la vuoi colorata, mi dai quella bianca e ti do quella colorata. Ma colorata come? Colorata rimane un tocco sul tra il rosastro e il viola. Vediamo. E poi bisogna vedere se i metri del neon sono uguali. Appunto, bisogna essere uguale, sì. E tu a quanti litri hai? 100 litri lo stesso? Sì, 100 litri. Ma che marca è tu? Quella che fai, ti ricordi quella, adesso ti mando la, non c'è scritto la marca perché non c'è neanche l'etichetta che hanno dato, sono quelle etichette che mettevano incollate nella cornice dell'acquario. No, almeno dell'acquario, meglio degli acquari migliori che esistono, io ce l'ho 25 anni, non ci riguardo, c'è il vetro grossissimo, spesso, proprio grosso, hai capito? È cristallo, secondo me, non è vetro quello lì, è proprio cristallo. E l'avevo pagato allora 1.200.000 lire tra acquario e mobiletto, poi il mobiletto l'ho fatto fuori, me l'ho fatto fare da Giulio nel colore della sala, perché era nero, non piaceva a mia moglie, e gliel'ho fatto fare del colore dei mobili. Casino, sto cercando un mobiletto, per acquario non ce l'ho, il mobile suo nero. Provo ad andare da Portobello, di solito ce li hanno sempre, gli acquari con i mobili, eccetera. Sono andato anche da Mercatina delle Pulci e all'altro ancora quello calabrese, lui mi sembra. Quale? Quello che c'è vicino alla piazzetta, dietro la piazzetta? Quello dove c'è la bicicletta fuori, vedo una bicicletta fuori, per andare a Nuspi, andare a Porto Torres. Ah, ho capito, ma ce n'è un'altra ancora, non so se tu lo sai. Per andare alla piazzetta, però passando da dietro, dalla centrale del latte vai dritto praticamente, vai dritto, fai 100 metri sulla destra, c'è uno che vende queste cose. Ah, c'è più quello, dai, non c'è più. Come non c'è più? Non c'è più quello lì. Quello lì ha fallito già più di un anno. E quello che c'è, qui c'è un altro, esattamente al centro commerciale non è solo. Ah, dove ci sono le piscine? No, lì non ci sono andato. No, quello lì vede più che altro dischi, queste cose qua, ma non penso che rame di quella roba, capito? E io invece dovevo trovarmi con questi lubi, perché si sono deteriorati col tempo, la plastica sai come si secca e si spacca. Loro praticamente sono andati con la colla a caldo. Vediamo se c'è Alessio. Alessio. Aspetta un attimo già. Sì, Alessio. Sta salendo la propagazione. Attention my friend, attention my friend, Italy from Sardinia. Attention, attention. Tua city. Come ti mai? Anni, tu sì. Mi senti basso? Eh? Io stavo prendendo fino adesso con Emanuele, non mai giunta. Vabbè, ma guarda a me, ma mi sta uscendo questo microfono. Sì, si riesce bene. Sì, perché l'ho aggiustato, l'MP5. Cioè, va bene, allora mai che viene al massimo, stavo controllando. Qua è tutto a posto, l'uscita di guardia è uguale. È storia che si fa, c'è una bomba tutta. Emanuele, guarda che ti ho scritto qualche consiglio che ho messo. Adesso guardo, c'è una bomba, sì, cazzo, insomma mi dici dalla radio. Prima di lui che difettoso infatti. Adesso mi stai arrivando bene. Sì, io guarda, sto parlando poco fa mi adesso. Niente di più. Mi sembra strano, mi fa parecchio. Che si abbigliando tutto rugoso, boh. Alto, sei basso, eh. Ah, sono basso, aspetta che ti aumento. Guarda bene adesso. Adesso va bene, però la motivazione è bassa, non è quella. Devi essere il fapparecchio che ne abbelli, boh. La motivazione è molto. Ma adesso sei in basso tu di radio, ma non te stai parlando. No, adesso non mi ascolti. Adesso sì, adesso va bene. E da lontano, sì. Arriva in basso, che microfono stai usando, normale. No, Dynamic Mic. Quello con il tasto rosso. È nero con la rotellina sopra. E di che apparecchio è quello? Questo è il presidente. Ah, sempre quello lì, esce bene. Sempre quello. Ah, l'ho messo a posto è questo l'MP5. Ho capito, cosa c'avevo? Allora, io avevo cambiato il diodo, non usciva perché c'aveva un filo del cavo interrotto. Quindi raggio giamba drugavo e aveva fare il sciavolo. E adesso fai il passaggio del filo. Praticamente fa il ponte e esce forte. Io ho cambiato tutto il filo intero, gli ho cambiato. Il filo che esce del microfono che arriva alla radio. Quello lì tutto intero gli ho cambiato. Ma c'è una modifica, se tu rifai il ponte dove c'è la resistenza lì, ti fai il ponte, gli elimini la resistenza e gli unisci, gli fai il ponte lì. Esce tre volte più forte, come sto uscendo io adesso, questo qui è l'MB più 4 però. Ah, nell'MP4 sì, nell'MP4, ma qua non lo so come si fa, il circuito è diverso da quello dell'MP4. E so che ti... che talento ne ha propagazione. Attenzione, attenzione, Italia, pacchia marca, cambio. Attenzione alla frequenza, l'isola della Sardegna, città di Sassari, fa chiamata. Emanuele, ci stiamo preparando di ammagnare. Emanuele deve andare a lavorare alle 10, sempre fare da mangiare, sì. E lui deve essere che si fa roba pedardeccia da mangiare. Non si accontenta di un pezzo di formaggio e cose, no, roba beccia. E tu devi stare a dieta, non è due mesi che ci vedrai, ma devi alzare, dai, dici che l'agno, bambù, mi pare un armadio. Esagerato, faccio un armadio, Otto, non mi hai visto che sono un figurino, magro. Aspetta che è magro, mi pare un armadio, mi pare, vieni menina, siete? Sei un bagu. Andiamo per te. Cazzo di non male, Luia, cazzo ma ci apparavamo fa crisina. Ma non è già gira troppo per ogni. Sono già un cardiologo da voi cosa ti fatti. Un cardiologo mi ha detto di mangiare un bruto con la bocchetta. Avevo messo io già. E così non la trassai. La massa che veniva mi ha detto di mangiare un bruto con la bocchetta. Che andiamo per andiamo, dai. Oh, sono quelli muri tutti su Facebook, come voi, adesso è morto a girare di altro fatto, animale mi pare che era morto. Ah, andiamo a Celentano. Su TikTok, cazzo, ogni anno muri uno, al mano, a stessi. Ma li fanno vivere di più, quando dicono queste cose li fanno vivere di più. Tutto a posto tu, sì. Sì, domani mangiare si deve fare un'altra gabbisuglia. A punire appunto un'antenna centralizzata. E domani è un po' più temporale. Cazzo, una limona del suo varato. Tu sei scendato d'altro questo mangiare. Ma dobbiamo salire domani mattina, se fa buono. No, a me domenica ha messo temporale. Ma boh, guardate il telefono, avete, da stanotte ne siamo già a iniziare a girarsi il tempo attorno. Sì, la pazienza, vuol dire che poi avremmo funzionato così, quando lo zigai, ma torniamo a iniziare. Cazzo, non si comprende nulla che ho detto, ha fatto quel cazzo di acqua, vento, più cacca ancora e vento. Io ho visto le previsioni del tempo, e ha messo buono per domani. Beh, domani mangiare, arrivo e te lo dico. Domani mattina te lo dico io, quando smonto. Tanto me ne invece arrivo e mi so io. Cazzo, bello. Ma non è vero, guarda che ti ho parlato di discus. Quello, no, però non è questo che ti stavo dicendo, era rosso. Cazzo, va via, un capo, sembrava quei pesci. Ma bello, 140 euro volevano. Guarda, questi qua io li ho avuti tutti, questi che ci sono in questo acquario che ti sto mandando. Li ho avuti di tutti i colori così, perché non ne devi mettere molti, devi mettere 4 o 5 al massimo. Fanno anche le uova, però le uova le attaccano alle piante. Se ci sono più pesci se ne mangiano. Ma dimmi una cosa, con quel pesce rosso non ne va delle uova, ho tutti i maschi. Non lo so, non penso, pesci rossi non ho mai visto nascere pesci rossi. Magari se li metti nei laghetti, quei carpari, quelli che, non so se conosci quelle carpe, quelle dorate, quelli lì che però crescono bene, la quale non fa me. Ho capito. Invece quelli piccoli non ce li aveva, gli ho chiesto se ce l'aveva quelli piccoli, quelli che si rimangono illuminati la notte. I neon? Quelli lì non li aveva. Ma quelli sono tropicali, cazzo. Sono tropicali. Aspetta che ti mando diversi tipi di pesce belli. I cogli si chiamano, quelle carpe che ti sto dicendo. E da tropicali si vedeva vivo, non sono quelli tropicali, sono quelli neri, e a chiasse sembrano illuminati sempre. Ah, allora non sono i neon sono quelli che ho io, i neon ce li ho io nella cuore. prigionieri da casa che di notte si vedono illuminati. Vai a guardarti queste se ti piace, però queste costano un po' e queste sono di acqua dolce, però meglio mettere nei laghi che si mettono nei giardini e roba del genere, perché crescono, capito? Aspetta che guardo, riprende con cosa? Come la misese? Sì, ci sono, ho cambiato radio, ho cambiato. Ho acceso il presidente. Ma l'altra che radio è? L'899 era, 40 canali. Vado all'impressione. Ho cambiato radio perché... a te ascoltava bene, a cosa non l'ascoltavo invece? Ok, vabbè, ma non è... c'è un antenino così in casa, non è che puoi pretendere molto, forse io l'ascolto bene, l'ascolto 9:20 così, però perché magari le antenne si vedono, capito? Sì, viraggio, ho un tiro di coso, viraggio in ombi. L'ho cambiata perché ma che cos'è la radio? Ho creato anche il colpo di fulmine. Ah, adesso stai scendo bene. Allora, risolvo il presidente questo, con l'MP4. E allora una cosa, perché non mi ascolti tu? No, prima non con l'899, non so cosa va. Te l'ho detto, uscivi basso, no, avevo una modulazione strana, non può essere perfetta. O era la radio o era un microfono? Ma era, secondo me, il microfono, la radio non va nulla, il microfono sicuramente. Ma il fatto della ricezione, come lo spieghi, che ti riceve un vavale a te, che c'è due passi. Io adesso stavo pensando, ma lei che mi trovi nell'altra casa, gli ho detto, magari le antenne nostre si vedono, ma tu ce l'hai due passi adesso. Cazzo, se vedi, ve la già dall'altra ancora. Se ti vedi, ma c'è un mazzo di anno che non mi fa capo. Cazzo, e dove ti vedo con Gio Maria? La parte di cosa con Tora va? Ehi, sì. Ma Gio Maria non l'ho più sentito, non è che lo si sente bene. Ah, sta lavorando in campagna, quindi in questi giorni non sta entrando. Perché si sente stanco. Lui non dovrebbe più fare questi lavori, dovrebbe farli fare agli altri, pagarli e farli fare. Oramai c'ha un'età che fa certi lavori di crepa. 87 anni va Gio Maria. Già lo so, già lo conosco Gio Maria. E poi ha avuto anche quel brutto incidente, che cazzo è caduto dall'albero, se l'ha salvata per miracolo quella volta. Già lo so, cazzo un giorno mi fa, ma noi andiamo in campagna, togliamo un'antenna delle vie di U. Cazzo, non ce l'ho fatta salire, no? Cazzo è andato Gio Maria, ma gli altri a Maria Sede. Avvio, è atletico allora. Ah no, cazzo, per la tagliavoleria ti sto parlando adesso di... sarà un... 10 anni fa che è successo questa cosa qua, neanche 10 anni fa. È salito lui, io non riuscivo a salire, a ciclista, non riuscivo a salire. Cioè Maria, ha stato un attimo nella bugata. Ma sull'albero, quella che c'era sull'albero? Figlia, che c'era la manta, vai, le vie che lui c'aveva nella bugata. E adesso c'è solo l'antenna, la manta. Ti faccio stare agli animali. Cazzo, avevo grido. Cazzo, quello momento ti batturava, Ivi. Ma lui vicino al mare, perché? Al mare? La campagna c'era dalle parti di San Camillo. Vabbè, ma la zona di Sorso, lì, la marina di Sorso, c'è... Il vento, se c'è maestrale, un bilanchero, E beh, il mare, dove, nella zona dove è lui, il mare te lo vedi davanti, te lo vedi davanti il mare. Infatti, la zona è molto areggiata, quando c'è il vento lì tira forte, perché il maestrale, qua, il vento che abbiamo, che rompe le scatole è il maestrale. Cazzo, la carica, se verrà un vento, se non ha fatto un po' danni, no? Cazzo, alberi in terra, la carità. Faccia facciate, a Giovanni so fare dentro il tappeto che facciate. Ma qua ha troncato, c'è un ramo di albero, però non l'ha fatto cadere, c'è troncato e è rimasto attaccato all'albero. E secondo me qualche fulmine che era lampato. Sì, sicuramente sì, qualche fulmine ha fatto danno pure qualche parte. Ah, che non l'hai visto quei due alberi che ne sono caduti qua? Le hai visto tagliandoli, Manuele? Sì, già li ho visto, cazzo l'ha ridotto un masano per il gasino, io ero appena rientrato da lavorare, cazzo tutto un masano per il gasino, non ci ho dormito nulla. Allora se ci hanno imboccato la regna, se ci hanno imboccato, ma se ce l'ha portato al comune, all'altro? Cazzo ragazzi l'ha tagliata, si è la bocca, no? Io sono già pieno la macchina, ma semmai non riesco a camminare la macchina, non riesco. Seria, pensa a Dio. Caricata a lei, dai. Che cosa se l'ha caricata a lei? Ah, caricata a molti per ombre. Se c'è papà nel piso, io c'è questa maniera la macchina. E la prima messa è legna buona, se... Di solito un olivo che si fa bruciare per arrostire, per fare. Olivo era, olivo selvatico, mi dice che non ti dà la riva, però ti dà le olive di quelle che non servono. No, già servono, se fai si fanno sotto sale quelli lì. Olivastro, le olive si fanno sotto sale, si seccano, si guardano tutti a cruciopidi, hanno poca colpa, ma sono buoni. Oh, vi saluto, ciao Gianni, ciao Tore, ce la riascoltiamo, dai, che mi preparo, vi faccio la doccia, che arriviamo con qualche decina, no, ma riposo un pochettino, ce la riascoltiamo, dai, buon proseguimento di serata, vai Tore. Ok, ciao Manuele, stammi bene, e buon lavoro per stanotte, ok, avanti già. Sì, ciao Manuele, ci sentiamo, va. Poi sembra qualche gravango, qualche mulela, io l'ho avuta la mulela nell'acquario, però mi è morta, vabbè ci sentiamo. Ehi, ciao già. Ciao Manuel. L'ho avuta la mulela tropicale, era tutta colorata, bella cazzo, se ne stava dentro la brocca, c'era la brocca, lui se ne stava dentro, e togliava la testa qui, stava sempre con la bocca, sempre a me. Ma di acqua dolce da noi? Sì, acqua dolce tropicale. Infatti. Dai, l'ho avuto anch'io. Mi è rimasto solo l'acquario, però mi pare che si è potuto pure. Che acquario è? Largo 1,50 m di larghezza. Mi pare 60 d'altezza. Se nell'acquario, perché io sto cercando i coperchi che mi si sono rotti. Non lo so se è preciso questo. Se lo vuoi te lo do dentro io. Oh, no. Vado a pulire prima, anche da un bel che non rubini. Vogue 830 il mio è, il Vogue 830 dell'acquario. Ah, non è quello lì. Non è questo qua. Il largo 50 è largo. Il vetro grosso ce l'ha. No, è tutto nero questo. Pure il vetro. Ah? E tu ti troveri così. Vabbè, ma magari si può adattare, capito? Se si può adattare mi interessa, perché il mio c'ha 25 anni l'acquario, però è indistruttibile, è bellissimo. Nell'acquario, guarda, l'acquario bellissimo, ho avuto tutti i tipi di pesci, ho avuto anche piranha. Ma non ne voglio più. Se vuoi io lo fa. Ma ha detto, ma quando è che mi ci ho studiato questa cosa qua? Ha detto per i giapponi mi ci va da buio. E lo fa a pesci russi, ci metti pesci russi normali, con l'aereatore si campano la vita, anche 15 anni ti dico. Cazzo, le luci diventano i mostri, diventano. E poi tu li fai la nostra. Ah, carellare. Certo, non mi piace. Vabbè, già non mi hanno lavato per i pesci, Poi quelli d'acqua dolce. Vabbè, però una volta mi hanno regalato delle cappe, questo amico mi ha telefonato e mi ha detto, oh già, c'è il pozzetto pieno di cappe. ne ho preso due che saranno 3 kg l'una, così, ai buoi due. E ho detto, no, oh, no, io pesce di fiume, te lo dico io come fare, da voi mi dice che lo è. E me l'ha fatto fare a tranci, mettere sotto sale tutta la notte e poi fare come baccalà, oh, fai a baccalà, a migri. Sì, e diventano salati, diventano come l'acqua, come quelli del mare. Ehi, erano buone. E poi le pesca in posti, le carpe le pesca in posti puliti, capito? Non ci va di fanghiglia, roba, perché le carpe mangiano da sotto. Se c'è fanghiglia, mangiano fango e sono cattivo. Sì, infatti, però vanno dove c'è acqua dolce, pulita, l'acqua pulita. No, a me me li ha dati un amico, me li aveva dati un paio. L'avevo messo con il sale e poi l'indomani li ho fatti cucinare. Ed erano i buoni, erano. La fatica li ho fatta a tenere le squame, c'erano le squame grosse. Non ce la facciamo a togliere manco col coltello, ci credi? Sì, chiaro il gioco, c'ha lo squame grosso, c'ha. Pensa un po' che se ti sei chiamata da me, pesavano 2,5 kg l'una. E anche quello che era da me, sui 3 kg, uno mi pare che era 4 kg, l'altro era 3 kg e qualche cosa lo stesso. Ma dice che c'è un freezer pieno, dice io non mi serve di più, che era pazzì, mi dispiace buttarcelo perché sono fresche. Io c'ho il freezer pieno, non so più dove mettermele, mi ha detto. Di Giuseppe. Una volta ci ha comprato la canna nuova, ha messo la canna a casa, si è girato per accendersi la sigaretta, è partito la canna e si è tuffato l'acqua al vestito per non perdere la roba nuova la canna. Ha pelato una carpa enorme, ma era enorme, cazzo, dice che era un bel grande, mi pare che era la roba di 6 kg. Certo, carparilla era. No, questo è troppo manna. Si è attirato la galera. Ti sono curioso che si deve fare il sud. Vedi che il sabato è buono domani. Se in Sardegna è buono domani. Ha messo solo a Centro Italia. Brutto. È il tempo di cavolo, non sai come vestirti, se ti vesti pesante c'è caldo, se ti vesti leggero c'è troppo, c'è freddo, no? All'accettare non sai più come vestirti. Oh, allora una sera era prefitto e c'era freschetto ieri sera. E io sono uscito in pantaloncini corti, come la cucina, troppo caldo. Io sudo bene, quando esco col cane sudo perché cammino. Chi dirla a me? Non dirla a me, certo che è peggio, certo. Non ci brucia più. Aspetta che lo provo qua, quell'altro microfono, a vedere, Gianni. Già, guarda a vedere, bene esce. Sì, qua sì. Però non è il microfono, è la radio. E allora? Qua già stai uscendo bene, per esempio. Qua gli avevo cambiato il diodo e non usciva. Ah, rimane, mi gioco un bocco, ho controllato il capo con il tesser, i fili, e ho guardato, prima il rosso, poi il giallo, poi la massa e poi quello nero interrotto. Infatti con Manzano gli ho dato Roma a pesci e il nero che è interrotto. E se c'hai il cavo? Io l'avevo trovato da, come si chiama, da Fusaro, però c'aveva quello che era 2 metri il capo, non avevo altro, quello spiralato. E me l'ha giubilato, non so dove arriva, mi posso girare nel letto con il cazzo e tutto quanto, e mi arriva da tutte le parti. No, ci ho messo questo qua che avevo tolto da un altro posto, mi pare da un microfono. L'ho provato a vedere e funzionava tutto, e ci ho messo. Ah, va un giù. Quando si interrompe, glielo prendo di quelli lunghi. No, a me lungo non mi piace spiralato, perché lo allunghi o tiri come vuoi. Se lo devi tirare, spostare, spiralato è migliore. Ma non è a... Certo, siete da Gallo Grubbiglio. Non è a chi? Quando sono andato l'ultima volta gli ho chiesto se non gli aveva la Fusaro. Ma già li ordina, se glielo dici te lo ordina. Ce li hanno i cambi, Io l'ho comprato mille volte. Non è bello come quello che ho io che è morbido, è un po' gudoso visto che ordinai già. Sei come te che c'è dello microfono l'MP4, che è un po' gudoso. Sì, non è morbido. Io voglio dire, sì, di quei microfoni, quelli di M1000 che ho smontato, che non funzionavano più, i microfoni, i capi me li ho presi. L'ho preso tutto il cavo intero, ho tratto l'attacco è uguale a quello che ho, non faccio altro che attaccare il filo al microfono e fatto io. Tanto te l'ha fatto bagagli quello che avevi comprato? Sì, non me lo ricordo, non me che l'ho comprato, sarà minimo 3 anni. Sì, perché io li ho trovati in internet e ti guardano sui 16, 17 euro, spirolato. Ti conviene prendere un DM1000, costa di meno, ti ricavi in un cavo e ti muri. Senta, metodo di vestimento, non mi quelli sono i microfoni, quelli nuovi che hanno fatto, che c'ho io, quelli riescono forse, che me l'aveva detto Marco Congo, figlia che lo riesce bene, me l'ho comprato, guarda, una bomba quel microfono. Ma che microfono è? Lo devo leggere. Che microfoni sono? Si chiamano K-P-O. Ma di quelli da tavolo sono, o da... da palmo? Palmitini. Ah? Da palmo. Ah, quelli da palmo. Ah, vedi che se ne aggiù un bel naggiù. Ah, no. Fatta un po' questa sarabriccia che non si fa vedere. Certo. Ah, non ruggio arrivi. Ma è, ah, vai. Certo. E sono liscio, sono... succedo con questo l'apparato. Certo, è un bel forse muro. Guarda, adesso, 1, 2, 3, 4, 5. Ma mi hai dato? Allora ti sei facendo la lancetta. Ah no, ti aspetta, da 20 ci sale a 3 ci assado. A 3 è il rosso però. Che lei è? Quindi già funziona in deve a Ruglia. Ce l'ho fatto il ramo di Odo. E io prima di tutta la apparecchiatura stasera perché era un po' che... Vabbè, le accendo lo stesso. Ieri me ne sono dimenticato. Le accese di mattina. Quindi il cavalletto non ce l'ho più entrato. Ho fatto tutte le cose della casa, pulito, fatto. Poi la notte me la coricavo e mi dicevo tutti gli apparecchi accesi. Tutto il giorno accesi sono stati. Certo, sono arrivati a casa. Belli caldi erano. Io dico che i condensatori hanno caricato, cosa dici tu? Certo, hanno caricato, è un bel puro. Perché erano nelle altre stanze, quindi non ci ho fatto caso, io sto più che altro in cucina, perché guardo il televisore, mangio, faccio tutto lì, capito? Quindi non ci sono entrati i camion da letto sino alla notte. Dopo che pulisco, che faccio il camion da letto, non c'entro più pure. Le letteri ce l'accendo così almeno lo scaldano un po', e se mi sono dimenticato il tisito. Però non ho fatto la terapia, dai, anche io sto uscendo intanto. Ci sentiamo, dai, buona serata, grazie per il QSO. Se vuoi entrare anche domani non c'è problema. Ciao, ciao. Ciao Gianni, stammi bene, buona serata anche a te. Ci risentiamo alle prossime. Ciao, ciao.